aspetta. C'è un'aria pesante per farmi strada, ci vuole un'accetta. C'è punta di marcio nell'aria, qualcosa va male. C'è una botta di sfiga qui intorno, in dose industriale. Ti aspetto più sento che qui è tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Passa sempre il concetto più giusto del mondo di chi ha dato a dato. Le cose non vanno da sole, le devi forzare. Compromessi a manetta nel mondo se vuoi respirare. Mi odio per questo, ma è giusto così. Fregare la gente e non dire mai di sì. Le scuse le trovo da solo, non le devo neanche troppo impegnare. La cosa più triste per me è che adesso sono solo e non riesco a pensare. La cosa più giusta è quella che sento forte, forte nella